Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, ho pensato di rinviare a domani l'appuntamento col calcio internazionale con Fabio Tavelli per due buone ragioni. La prima è che continuano gli echi del derby di domenica, avete sentito anche già le sentenze del giudice sportivo nel giornale radio che adesso vi ricorderò. La seconda è che, come ascolterete nella seconda parte del programma, cioè dopo le 14.30, la componente internazionale è comunque ampiamente e direi prestigiosamente rappresentata. Il derby. Allora, il derby, la tariffa per Snyder è stata di due giornate. Il giudice sportivo, l'agenzia è appena uscita, ha squalificato per due giornate Snyder. L'olandese è stato fermato, la motivazione è per avere al 27esimo del primo tempo a gioco fermo contestato platealmente l'opirato arbitrale, rivolgendo al direttore di gara un ironico applauso e un'espressione ingiuriosa. Questa la motivazione. Il giudice sportivo ha comminato una ammonizione al giocatore dell'Inter Materazzi per avere al termine della partita indossato una maschera carnevalesca con l'effigie del Presidente del Consiglio dei Ministri, entrando sul terreno di gioco per festeggiare la vittoria con i compagni di squadra. Questa la seconda motivazione. Tra le altre notizie interessanti di giornata c'è che la Juventus parrebbe aver rotto gli indugi e puntare decisamente su Rafa Benitez, l'attuale tecnico del Liverpool, che è in rotta con il club inglese ma che è ancora legato a Liverpool da un contratto per 4 anni. Questo sarebbe emerso dal summit di ieri tra John Elkann e Blanc. E probabilmente, dato che questo è un progetto a lunga scadenza e non si può certamente definire Benitez un traghettatore, probabilmente questo, se confermato, vorrà dire il salto definitivo dell'operazione Lippi, perché non è pensabile, non è immaginabile, io credo, una convivenza tra due allenatori di quel prestigio e di quel calibro. Un altro vertice è in corso a Genova, a casa del patron del Livorno Spinelli, con il tecnico dimissionario Serse Cosmi. Incontro decisivo per risolvere, anche questa è un'agenzia arrivata da poco, il rebus della panchina del Livorno, rimasta senza guida domenica sera per le dimissioni dell'allenatore. Lo strappo si ricucirà, secondo indiscrezioni, solo se Spinelli offrirà garanzie sull'autonomia assoluta di Cosmi nelle scelte tecniche e troverà il modo di compensare almeno parzialmente da un punto di vista tecnico la partenza di Candreva finito alla Juventus. Dicevo, gli echi del derby che immagino rimbalzeranno anche nei vostri interventi. Continuiamo a documentarvi comunque su quanto i protagonisti diretti e indiretti hanno dichiarato in proposito, e sentiamo quelle parole dell'amministratore delegato Paolillo pronunciate ieri mattina ai microfoni della RAI che avevano incendiato l'indomani mattina del derby. C'è una evidente aria di voler assolutamente riaprire il campionato, non riconoscendo la superiorità della squadra fortissima sul campo, e volerlo riaprire in una maniera non completamente leale sportiva. È stata aperta un'inchiesta sul perché non è stata giocata la partita di Genova, non mi risulta sia stata aperta nessuna inchiesta sulla partita di Fiorentina-Milan. È stata spostata una data superiore ai 10 giorni, e anche questo non andava bene, e poi è stata ulteriormente spostata. Allora, una partita di campionato non è un jolly che uno si gioca quando vuole. Tutto questo, si voglia o non si voglia, farsi al campionato. Era una parte, soltanto la parte più edulcorata delle dichiarazioni di ieri di Paolillo. Un commento del Corriere della Sera, a firma Fabio Monti. Alla fine, di fronte a una società che sbaglia sempre i tempi delle prese di posizione politiche, Mourinho si è vestito da dirigenti. Moratti, dopo una settimana di silenzio, a parte l'attacco a Lippi, con la resa di fronte al cambio di calendario, ha accompagnato la scomposta reazione in tribuna all'espulsione di Snyder. Unica decisione azzeccata da frastornato Rocchi, a una serie di accuse lanciate fuori tempo massimo. Ieri mattina si è mosso anche l'amministratore delegato Paolillo, che a Radio Rai, questa era l'intervista, l'altra parte dell'intervista, ha parlato della volontà di riaprire il campionato non riconoscendo la superiorità di una squadra e lo si vuole fare in una maniera non troppo leale. Non credo a una congiura, ma penso ci sia un'aria strana. Sentiamo in proposito come la pensa il capitano dell'Inter, Zanetti. grande felicità, perché credo che abbiamo vinto una partita molto importante, dove la squadra ancora una volta ha dimostrato grande carattere e grande personalità e ha meritato ampiamente la vittoria. L'Inter deve continuare così, a dimostrare la sua forza in tutte le partite che dovrà giocare, dopodiché deciderà il campo che è la più forte. Non pensiamo che ci sia nulla contro, però noi, la nostra reazione è così, perché così devono avere gli occhi aperti, soprattutto per quello che è successo nelle ultime partite. Già, un tono mi sembra leggermente diverso. A questo proposito, un altro po' di rassegna stampa. Luigi Garlando sulla Gazzetta. Bonucci non espulso a Bari dopo il fallo da rigore. Fa scopa con Maicon a Cagliari, quarta giornata, graziato dopo il rigore su Matri. In 10 i nerazzurri avrebbero ribaltato il risultato da 0-1 a 2-1. La moviola della Gazzetta racconta che all'Inter mancano 3 rigori con Udinese, Juve e Lazio, ma 3 ne mancano agli avversari dell'Inter, Palermo, Fiorentina, Chievo. E allora? L'aria puzzava un tempo, signor Mourinho. Per cambiarla abbiamo dovuto spalancare i tribunali. Un tempo la contabilità dei rigori non tornava per davvero. Un tempo forse avrebbero impedito che Pandeva arrivasse all'Inter a parametro zero. Oggi l'Inter può tutto. È la più ricca, la più forte e la più desiderata. Vince quando vuole. Può tenere Eto'o in Africa, Balotelli in panchina e schierare un attacco spaventoso. Se il Milan perde Nesta deve arrangiarsi con Favalli, anni 38, perché Berlusconi ha tagliato i fondi. Galliani, l'uomo nero, ha sempre avuto la stima e il voto di Moratti. E allora perché non accodarsi alla folla in estasi da derby invece che flagellarsi con i sospetti di un improbabile complotto? E comunque sarebbero complottisti dilettanti, continua Luigi Garlando sulla Gazzetta, ripeto, visto che l'Inter domina da 3 anni. Giusto vigilare e pretendere arbitri e designazioni migliori, ma poi dopo un derby così che farà storia, perché non festeggiare? Faceva bene Mourinho a invocare l'osanna della curva per i suoi ragazzi. Si unisca all'allegria degli osannanti e con lui Moratti, Paolillo. Considerando quanto ha portato bene a Milan e Juve, neppure la mancata visita alla Pinetina del CT Lippi fa più problema. Se la goda l'Inter anche in modo beffardo alla Materazzi. C'è un ascoltatore già collegato, anzi sono due. Andrea da Novara, per esempio. Buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Grazie per avermi richiamato. Uh-huh. Volevo fare una breve considerazione tecnica sul derby. Io credo che andare contro l'Inter di Mourinho, schierare un 4-3-3 con due esterni alti, come due figurine come Beckham e Ronaldinho, e tre centrocampisti logori come Pirlo, Gattuso, Ambrosini, è stato un po' un mezzo suicidio. Perché chiaramente l'Inter ha infilato il Milan nel centro del campo sulle ripartenze. Volevo una sua opinione, la ringrazio, buongiorno. Ma insomma, il centrocampo del Milan è logoro da un punto di vista anagrafico, e lì mi pare che ci sia pochino da fare. Più da fare c'è invece sulle scelte che possono essere legate agli esterni, lo dicevo già ieri. Io sinceramente continuo a non capire l'operazione Beckham, insomma, però se non l'ho capita l'altro anno, evidentemente faccio fatica, a maggior ragione, a capirla adesso. Sarà evidentemente un problema mio. Io credo che per quel che Beckham sta dando al Milan e per esempio ha dato domenica sera, io credo che lo stesso contributo lo potrebbe dare Abate in quel ruolo, e potrebbe esserci al suo posto dietro qualcuno che difenda meglio di Abate, non per colpa di Abate, ma per causa del fatto che non è un difensore. Io credo che sì, in effetti ci fosse uno sbilanciamento eccessivo e che questo si possa concedere ad altre squadre, ma non certamente all'Inter, tantomeno a un Inter così motivata, entrata in campo ventre a terra, veramente, veramente al suo meglio, direi al meglio di queste stagioni in assoluto. Mario in linea da Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Ma io non farei tante cose a Mourinho, okay, perché la squadra c'è a prescindere da Mourinho, giusto? Ma quello che volevo, per me sì. Che volevo capire io è come si può sentirsi grandi tipo la Roma per aver battuto la Juve. Come si fa? Beh, insomma, intanto provo a rispondere. Intanto per Ranieri, se la mettiamo sul personale, è una rivincita straordinaria. Credo che raramente nelle carriere di un allenatore capiti di essere licenziato per indegnità tecnica, da una società a tre giornate dalla fine presentarsi su quel campo l'anno dopo, presentarsi già in vantaggio di punti pur essendo dovuto subentrare in panchina a campionato in corso, presentarsi in vantaggio di punti e batterla, quindi questo credo che già sia una grande soddisfazione. Secondo, la Roma non ha giocato solo quella partita lì, la Roma è in un ciclo positivo che nelle ultime non ricordo quante giornate, ma mi pare una quindicina, la vedono in testa alla classifica in assoluto, seguita dal Napoli, beh, insomma, e dall'Inter. Qualcosina vorrà dire, mi pare che l'esultanza, sempre che non sconfini poi nell'euforia, di questo Ranieri si è già preoccupato ieri e non poco, mi pare sia più che legittima, indipendentemente dal valore attualmente molto ma molto modesto, sono d'accordo, dell'avversario. È arrivato ufficialmente la disposizione del prefetto di Milano Lombardi per la partita di giovedì sera, Inter-Juventus di Coppa Italia, eliminazione del settore ospiti, accesso all'impianto consentito agli abbonati dell'Inter, bigliette in vendita solo ai possessori della tessera del tifoso interista e ai singoli iscritti agli Interclub riconosciuti, con incedibilità degli abbonamenti e dei tagliandi. Quindi il settore ospiti è chiuso per le note e disgustose vicende che riguardano la parte peggiore del tifo juventino. C'era già la curva chiusa, come sapete, sabato sera a Torino. Questa partita, Inter-Juventus di Coppa Italia, giovedì alle 20:45, sarà diretta da D'Amato di Barletta. Tocca a Gianni dalla provincia di Siena, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Una breve premessa: secondo me è stato giusto precisare l'arbitraggio negativo da parte di Rocchi nel post partita. Da interista dico ora basta, e sottolineerei invece quanto è bello calcisticamente veder giocare un giocatore come Milito, che ha cambiato secondo me radicalmente il modo di giocare della squadra, fa salire la squadra, è un giocatore diventato veramente fondamentale per questa squadra. È il principe, è l'attaccante più forte di quest'anno, mi pare, e credo si giovi anche dell'assenza di Ettore, non per buttarla sempre in cosa, ma ho l'impressione comunque che comunque Milito senza Ettore sia ancora più forte. Non c'è controprova, perché Milito ha segnato con Eto'o, senza Eto'o credo che segnerebbe gol bellissimi, tra l'altro con questo, quest'altro e quest'altro ancora. Certamente diciamo che non ha risentito in maniera particolare dell'assenza. Sono stati tantissimi i telespettatori a pagamento, ovviamente, di domenica sera. Pensate che per il derby, allora, Sky Sport 1 ha ottenuto un ascolto medio di 2.407.000 spettatori e Mediaset Premium di 1.476.000, cioè sommati fanno quasi 4 milioni di telespettatori, e per un totale del 8,53, per un totale 14% di share complessivo a quell'ora, considerato che sono canali a pagamento. Mi sembra, va bene che dall'altra parte c'era anche Inter Milan, però è una cifra record, difatti non a caso. Giuseppe in linea da Modena, buongiorno. Buongiorno dottor Canzini, complimenti. Sì. Due piccole cose. Primo, cosa ne pensa, io ieri l'ho ascoltato, però nessuno ha detto niente, cosa ne pensa del mani di Michael in Ronaldinho sull'1-0, prima? E poi, scusami l'ignoranza, ma Figo è ancora il tesserato dell'Inter? Cosa ci faceva in panchina? Figo è un dirigente dell'Inter che ha sostituito Oriali, che era squalificato. Sul fallo di mano di Maicon penso che fosse nettamente involontario, perché la palla gli arriva da una cinquantina di centimetri, insomma, da una distanza non superiore al metro, e tra l'altro gli sbatte prima sul petto e poi va a finire sul braccio, e quindi anche da casistica mi sembra un'azione decisamente involontaria. Sono arrivati anche gli altri squalificati, allora ricordo due giornate a Snyder per la reazione verbale scomposta di domenica sera, e poi una giornata ciascuno a Buffon e Grosso della Juve, Cribari e Brandao del Siena, De Lucia del Livorno, Lucio dell'Inter, Larrivé del Cagliari, Doni dell'Atalanta, Coda dell'Udinese, Castaldello Sampdoria, Mandelli, Pinzi e Rigoni del Chievo, 3, Meggiorini del Bari, Pazienza del Napoli e Mozart del Livorno. squalifica di una giornata e ammenda di 5.000 euro all'allenatore dei portieri dell'Inter Silvino, espulso durante il derby con il Milan di domenica scorsa per avere al 40esimo del primo tempo rivolto ripetutamente espressioni insultanti all'arbitro e al quarto uomo, infrazione rilevata proprio dal quarto uomo. Inter punita anche con un'ammenda di 7.000 euro per il lancio di accendini da parte dei suoi tifosi, che hanno anche acceso bengale e fatto esplodere petardi, e con un'altra ammenda di 2.500 euro per il ritardato inizio del secondo tempo di 2 minuti. A me devo dire che i minuti sembravano anche più di 2, come ritardato inizio, ma faceva parte, abbiamo letto poi nelle ricostruzioni, anche questa delle strategie murignane. Marco ha chiamato da Catania, buongiorno. Dottor Garanzini, buongiorno. La prima cosa è veloce, mi domando come mai lei non è ospite della domenica sportiva vista la sua competenza e visto quello che c'è in giro. Io spererei un giorno vederlo là, perché onestamente lei è molto molto più bravo, diciamo, di competente di quelli della RAI. Ma togliendo questo aspetto, volevo parlare del derby. Io dico onore e merito all'Inter, perché ha battuto, diciamo, in una maniera bella, superficie, è stato lampante la vittoria. Però ora mi domando questo: ma perché signor Mourinho aleggia sempre a questo sospetto? Ora, se l'Italia ha già pagato, il calcio italiano ha già pagato, ora possiamo dire tutto, gli arbitri sbagliano, ma ora sono errori che possiamo dire sono errori. Quindi se lui ha questi sospetti, alimenta sospetti in tutti, e il calcio non ha bisogno di questi elementi, il calcio ha bisogno di verità. Sono d'accordo con lei, Marco. Guardi, io dopo conoscevo Mourinho da prima, conoscevo le sue esperienze inglesi, mi aveva molto colpito questo personaggio da un punto di vista negativo, nel senso dell'educazione sportiva. Quando l'ho visto lo scorso anno, perché quest'anno ha dato la stura, diciamo, alle esultanze scomposte, comunque alle esultanze vere, alcune perfettamente legittime, anche quella di domenica finché è rimasto sul campo, eccessive ma legittime, insomma, scomposte eccetera. Io ricordo lo scorso anno invece, in cui si era evidentemente imposto un atteggiamento più cauto, una sola volta si abbandonò a un'esultanza sfrenata a Siena per un gol in fuorigioco di Maicon di 3 metri almeno. Erano in 5 dell'Inter in fuorigioco, tirarono a pari e dispari, a chi toccava a metterla dentro, toccò a Maicon, che era quello più in fuorigioco di tutti. E ricordo 50 metri di corsa di Mourinho. Secondo me questa è la risposta alla sua domanda. Edoardo da Vicenza, buongiorno. Edoardo? Sì? Dica. Sì, le chiedo, per cortesia, capire il discorso di Beckham. Ma Beckham fa quello che è capace o fa quello che gli chiede l'allenatore? Perché non è possibile che un giocatore venga qua a giocare in Italia per poter poi andare in Cecafello e poi giochi così. La domanda è: fa quello che è capace o fa solo quello che gli chiede l'allenatore? Ah, guarda, fa quello che può. Insomma, sì, io credo che se uno, adesso non vorrei dire è ridotto, perché sennò l'espressione è molto infelice, ma se uno da 2 anni a questa parte, anzi da 3 forse a questa parte, è la star, che poi la vera star è Donovan, non è lui, cioè comunque è, diciamo, un uomo di punta del Los Angeles Galaxy, cioè se in altre parole il calcio che conta non ha più voluto Beckham, o comunque non l'ha voluto abbastanza da strapparlo a quella concorrenza, io mi chiedo sinceramente che cosa ci si aspetti poi da Beckham, con tutto il rispetto per il giocatore, per il suo passato, per il suo carisma, soprattutto quello legato al marketing, ma continuo a chiedermi in quest'anno e mezzo di sostanziale che cosa abbia dato al Milan, che è la domanda che si fa lei. Da Mantova, Franco, buongiorno. Garanzini, buongiorno. Niente, io volevo rispondere alle elucubrazioni del signor Paolillo, dirigente dell'Inter, perché come tifoso di calcio ed ex tifoso juventino, dopo Calciopoli, ex sottolineo, avevo messo una pietra sopra e volevo solo vedere le partite come atto sportivo. Questo non fa altro, questo signor Paolillo, che rivangare i fantasmi di Calciopoli. E allora io mi do una spiegazione del perché. So che lei non vuol sentir parlare ancora a 4 anni di distanza di Calciopoli, però mi viene in mente quanto il signor Bergamo disse, quanto il guardialine di cui non mi sovviene il nome disse, cioè che ad essere maggiormente interpellati da un punto di vista numerico gli arbitri erano quelli dell'Inter. No, lei ricorda male per due ragioni, la principale, non entro nella seconda, la principale è che i guardialine semmai erano di competenza Milan, era un ramo che attraverso un addentellato faceva parte di una competenza Milan. Franco, comunque lei indirettamente ha ragione, in che senso? Nel senso che facendo i discorsi alla Paolillo qua si finisce e non vedo di chi possa essere interesse questo, se non delle vedove inconsolabili ormai squalificate dalla storia, non soltanto dalla cronaca, visto che sono passati anni. Adesso una bella storia, bellissima direi, che dimostra come anche nel mondo del calcio, dove è vero che ormai sembra comandare soltanto il denaro, continui invece a battere ogni tanto ancora il cuore. L'avevamo introdotta qualche giorno fa con Osvaldo Bagnoli, oggi l'approfondiamo come promesso, e si tratta di questo in poche parole. Prima società in Italia, il Verona ha fondato una onlus per aiutare chi ha vissuto da protagonista con l'Hellas Verona e si trova oggi in difficoltà. Per farlo e per riuscirci si è ispirato alla società pilota in Europa in questa materia, che è niente meno che il Barcellona. Ora abbiamo i due presidenti collegati. Presidente della Onlus Veronese, fondata ufficialmente ieri 25 gennaio, è Franco Nanni. Buongiorno Franco. Buongiorno Gigi. Franco Nanni, terzino storico del Verona negli anni precedenti, agli anni dello Scudetto, per esempio tra il 69 e il 76, questa è la parte veronese della carriera di Nanni. Terzin fa il terzin, si diceva allora, lo diceva un certo Bagnoli, credo, no? Se non sbaglio, Nanni. E ho la sensazione che quello che diceva questa frase sia lì vicino a lei. E non l'ho voluto, Gigi, perché mi è di danno, perché lui è abituato sempre alla trasmissione, a fare la prima donna come Van Dosiris, e io purtroppo faccio il suo portaborse. Quindi gli ho detto, stai a casa perché ascoltami se vuoi, però non essere qua perché altrimenti mi condizioni. Fai un controllo, allora è rimasto a casa, va bene, farà un controllo qualità a distanza. Presidente dei veterani del Barça dal 2003. E invece Ramon Alfonseda, classe 1948, che tra l'altro è anche la mia, 117 partite da centravanti del Barça tra il 69 e il 73, un gol al Bernabéu nella finale di Coppa di Spagna del 71 tra Barcellona e Valencia, il gol decisivo del 4-3. Ho detto bene, signor Alfonseda? Corretto. Corretto. Molto bene, sì, sì. Vede che Wikipedia ogni tanto funziona, non sempre, sì, ma funziona. La ringrazio della sua presenza. Partirei da Franco Nanni per sentire da lui come gli è venuta quest'idea della, adesso senza fare troppa retorica e senza metterla tanto meno sul patetico, ma come le è venuta, come ti è venuta, Nanni, questa idea di del dopo carriera, che spesso in qualche caso comunque non è allegro e non è all'altezza della vita precedente per chi ha avuto qualche sfortuna di qualsiasi genere sia. Gigi, diciamo che l'idea è nata proprio, innanzitutto voglio salutare Ramon. Sì. E ringraziarlo perché io lo considero il mio maestro. È stato un grande campione in campo e fuori dal campo, perché tuttora il suo impegno è nell'aiutare in campo europeo tanti ex giocatori con, sì, la fondazione dell'EFPA di cui lui è presidente. Io ogni volta che andavo a Barcellona e che vedevo cosa facevano questi grandi campioni nell'aiutare tanti loro ex compagni, vedevo in sede un grandissimo campione sulla sedia a rotelle del grande portiere della Spagna, del Barcellona, Ramalez. Però e loro mi dicevano, vedi Franco, questa persona ha ancora voglia di vivere perché ha l'affetto, l'amore di tutti i suoi compagni. E io ogni volta che venivo a Verona dicevo che bello poter fare quello che fanno questi grandi campioni in campo e fuori dal campo. Però avevo il tuo amico Osvaldo. Sì. Che lui mi dice sempre, guarda che ti vai a inguaiare, noi siamo italiani, non siamo come loro. Beh, era la voce del realismo poi, Dopo rimani deluso, dopo io ti devo aiutare a livello psicologico e a ritrovare ancora l'equilibrio. Allora mi smontavo e ogni volta che andavo in Spagna mi diceva Ramon, Franco, se voi volete la fate questa associazione. Bene, comunque noi, grazie ai nostri grandi amici del Barcellona, di cui siamo onorati di essere dei colleghi, è nata sulla sua stessa falsariga. Noi abbiamo preso il loro statuto e loro cosa fanno? Loro aiutano tutti quelli che sono stati tesserati almeno un anno nel Barcellona o in questo caso nel Verona. Almeno un anno nel Barcellona. Allora, visto che la domanda tu l'hai idealmente girata ad Alfonseda, perché è stato il Barcellona a cominciare, io domando proprio a Ramon Alfonseda come vi è venuta in mente originariamente questa idea. Io direi che questo è nato, Franco, buonasera e grazie tante per le tue parole, Ramon, è un onore. Bene, io direi che questo è nato già 50 anni fa, sì. Veramente la prima idea è stato quello calciatori che hanno lasciato il calcio, prima volevano trovarsi ogni tanto per giocare calcio e mantenere l'amicizia, sì. Dopo pochi anni più tardi hanno visto che qualche di questi amici vedevano che i negozi, tutto quello che portavano, che avevano stato lavorando, sì, non è andato bene. Allora hanno cominciato a fare partite di calcio per guadagnare soldi e questi soldi andavano direttamente a questi ex calciatori che non erano stati fortunati. In difficoltà, ciò. Certo. Oggi ha fatto un salto incredibile. Io direi che questo salto l'ha fatto perché alla fine abbiamo fatto una signatura di un convenio collettivo, un convenio con la prima squadra del Barcellona, con il nostro club, con la Porta. Sì. Diciamo che questa è stata la chiave che garantisce che ogni giorno, che ogni anno noi possiamo garantire questo aiuto direttamente ai calciatori. Per esempio, tutti ex calciatori che hanno giocato al Barcellona con la prima squadra si hanno uno income su una quantità per mese di 600 euro o meno, noi automaticamente paghiamo 300, 400 o 50 euro al mese per tutto il resto della sua vita. Per integrare la pensione vita natural durante. Corretto. E questa è una quantità minima, perché consideriamo che un ex calciatore che ha giocato la prima squadra del Barcellona deve vivere con la massima qualità di vita. Certo. È il massimo onore per noi aver giocato con il Barcellona con la prima squadra. Beh, lo credo. E noi non possiamo lasciare mai tutti questi ex calciatori. Questo è un punto strategico importantissimo, è il più importante per noi. Ma anche noi, un altro obiettivo che abbiamo molto importante, vogliamo recuperare l'istoria. Vogliamo che i nomi di tutti gli ex calciatori che hanno giocato con Barcellona rimangano nella mente di tutta la storia qui in Catalogna del Barcellona. Perché oggi i dirigenti si ricordano di tutti i titoli che hanno guadagnato, ma non mai delle persone, o sino quello che sono più famose. Certo. Questo è un altro oggettivo che abbiamo noi. Anche portiamo il barcellonismo per tutte le parti che possiamo, ma anche crediamo che come ex calciatori abbiamo una cosa molto molto importante. Noi quando eravamo calciatori di Barcellona abbiamo ricevuto tanto tanto della società, e adesso noi dobbiamo ritornare alla società qualche cosa. Per esempio i valori pedagogici del calcio, sociale, solidari, verso chi? Io direi verso i bambini e la gente già più invecchiata. E questo è il nostro messaggio anche noi portiamo, no? Per questo quando abbiamo conosciuto a Franco, e Franco è una persona così sentimentale come noi, e che sempre sta pensando e come può aiutare gli altri, noi abbiamo cominciato a parlare di fare questa onlus, che sono contento che se mi conferma che ieri è stata fatta, certo, e lavorare insieme. Adesso ho capito, caro Alfonseda, perché Nanni è stato sedotto dalla sua idea, dal vostro modello. Nanni, voi come lo declinate a Verona? L'associazione è stata fondata ieri, quindi non corriamo troppo con i tempi, però io so che qualcosa avete già fatto, vi state muovendo. Come pensate per esempio di finanziarvi e come pensate di destinare le risorse? noi non abbiamo l'esperienza del Barcellona, però stanno venendo fuori tanti casi di nostri compagni che sono veramente angoscianti. Mm. Prendo l'esempio di Glauco Cozzi, mio compagno di squadra nel Verona, 5 anni. Mm. E lui dopo 5 anni fa è stato operato di un tumore a una tonsilla. Mm. E si è vergognato per tanti anni, aveva bisogno di aiuto morale, materiale, aveva bisogno di tutto. E quest'estate ha lanciato un appello sull'arena di Verona chiedendo aiuto. E io ho letto casualmente questa intervista ed era così tanto tempo che non lo vedevo, che avevo numeri vecchi, mi sono messo in contatto e lui si è commosso, si è messo a piangere perché dice: voi a me mi state dando una carica, una forza di lottare per vivere che è grandiosa. E poi diciamo così che noi siamo dei pivelli rispetto ai nostri amici del Barcellona. Beh, certo, anche per una però questione diciamo di dimensioni. Così nel nostro piccolo vogliamo fare, perché le cose anche a volte piccole possono essere grandi. Abbiamo la guardaroghiera del Verona, una signora anziana che prende 600 euro di cui 300 euro paga l'affitto. Bene, noi a questa signora garantiamo l'affitto in modo che lei, vista l'età che ha, si possa togliere qualche capriccio. E diciamo così, noi siamo onorati, perché io sono emozionato solo a sentire quella grande persona e campione che è Ramon Alfonsi. Ti dirò che lo sono anche molti ascoltatori, perché sto leggendo i messaggi che come ogni giorno mi arrivano in tempo reale. Ancora una piccola cosa prima di un breve intervallo, perché poi non finisce qui, che è questa: è vero che avete intenzione di creare una task force di medici del territorio per fare una sorta di consulenza gratuita, diciamo, sanitaria o consulenza mica tanto, per appunto per i vostri associati? Sì, questo scherzosamente ho detto a Ramon, che visto che loro non ce l'hanno e siccome loro sono stati i nostri maestri, noi siamo gli allievi, ha detto: gli allievi sono ben felici di dare ai maestri questa assistenza e questa, diciamo così, colpo di fortuna che abbiamo avuto, perché io sono impegnato nel sociale da quando sono nato, avendo un fratello down. E quindi quando ne parlavo con tanti amici medici, tutti mi dicevano: che bello, noi vi vedevamo giocare. E dice: sappiate che qualsiasi cosa voi avete bisogno, noi siamo a vostra disposizione. Noi nel nostro interno abbiamo uno staff di medici, grandi medici. Abbiamo dal primario di urologia Walter Altibani, è un grandissimo, uno dei migliori professori in Europa, se non dire al mondo. Abbiamo Fratton, grande gastroenterologo. Abbiamo il dottor Giovanni Lipari, vascolare. Abbiamo dall'endocrinologia. Abbiamo Paolo. Siete riusciti a sensibilizzare le eccellenze su questo versante, e questo è molto bello. E chissà che addirittura un antesignano come Alfonseda, lo hai detto tu scherzosamente, non prenda spunto da te per una volta. Torniamo a Barcellona, perché il tempo sta volando, invece quando si parla di cose come queste bisognerebbe poterlo fermare. Torniamo da Ramon Alfonseda, che è presidente del gruppo dei veterani del Barça. Io so, perché insomma un minimo di documentazione l'ho preso, so che lei sta preparando un congresso, perché tutti gli anni lei è presidente non solo i veterani del Barça, ma credo anche di tutte le società europee che hanno aderito finora. Corretto. Corretto. Abbiamo costituito anche 5 anni fa una sezione europea del calciatore, si chiama EFPA, sì. E cercando estesi obiettivi che stiamo parlando adesso con lui, anche con Franco, no? Sì. Allora, anche l'obiettivo. Diamo il supporto diretto della UEFA, direttamente dei Platini, sì. E questo è un aiuto importantissimo per diventare questa società che prende i rappresentanti di tutti i calciatori di tutta l'Europa. Sì. So che addirittura Nanni sta sperando prima o poi di riuscire a organizzare un congresso in Italia, ma e mi posso immaginare dove, ma glielo chiedo dopo. A lei invece, Alfonseda, domando, la prossima tappa è Liverpool, se non sbaglio? Corretto, la prossima tappa è 15-16 di aprile si farà direttamente Liverpool e speriamo anche un buon successo e continuità di tutto questo lavoro che stiamo facendo per aiutare tutti i calciatori, no? Certo, di tutta Europa, di tutti i club. Io credo che questa iniziativa, di cui noi in Italia, sinceramente, se non fosse stato per il Verona, per Nanni, per Bagnoli, per Fanna e per tutti i veronesi, ma Nanni innanzitutto, che si sono mossi, noi in Italia non avremmo davvero mai saputo nulla. C'è qualcosa di simile che riguarda il Torino, che riguarda i vecchi giocatori del Torino, il gruppo Philadelphia, ma insomma che non è... Non mi pare però mi pare di sapere che non è così ben strutturato e articolato. Tra i vostri, Alfonso Eda, io ho conosciuto qualche anno fa, faccio un caso singolo, velocemente, non per violare la privacy, ma qualche anno fa avevo seguito da vicino Julio Alberto, che è stata una grande gloria del Barcellona, che ha scritto poi un libro su molte sue disavventure, che io ho letto, che ho contribuito a tradurre e a provare a introdurre in Italia. Parlo di parecchi anni fa. Julio Alberto fa parte della vostra associazione? Senz'altro, e anche collabora con un programma direttamente adressato ai ragazzi da 12 a 15 anni, che si chiama Ingancia dalla Sport. Non so come la traduzione italiana è, stai vicino allo sport, al deporte. Nel senso, per esempio, immagina una giornata che va direttamente alla scuola. Alle 10 della mattina, prima di andare alla scuola, il professore passa un video della vita sportiva di Julio Alberto. Sì. Così quando entra Julio Alberto già si canta l'inno del Barcellona, dice visca il Barça, vuole una signatura da lui, perché così l'obiettivo è fare una connessione, diciamo un veicolo di comunicazione tra Julio Alberto e i ragazzi, no? Certo. Dopo comincia a parlare tutti i problemi di droghe che esistono nel mondo. Questo dura un'oretta e mezza. Dopo per la sera c'è un clinic sportivo dove si parla come giocare a calcio. E per la sera, diciamo per tutto il municipio, si invita al sindaco o responsabili delle droghe del municipio del sindaco. Certo. Si invita anche un altro calciatore e si parla di tutti i problemi delle droghe che ci sono oggi. Può esistere lì 100 persone, 200, 300 o anche 400 persone che parlano di tutto il tema delle droghe completamente aperto. Questa è un'esperienza incredibile. Fantastico. Che parla lì, no? E diciamo che è una persona importantissima dovuta all'esperienza che lui ha avuto nella sua vita, certo, adesso in questo momento che le sta anche portando per aiutare la società, no? Ne sono felice davvero personalmente, sia per soprattutto per Julio Alberto, ma anche per lei e per voi. Nanni, io non so, sto leggendo dei messaggi strepitosi che continuano a fluire su questo display. E, dato che il tempo sta per scadere, le volevo dire che sto raccogliendo, no, messaggi di gente che dice, soprattutto dei dintorni veronesi, ma non solo, che dice: se possiamo renderci utile, allora mi sembra che il minimo che possa fare è, se personalmente potessi rendermi utile in qualche occasione, in qualche vostra manifestazione che organizzerete per raccolta fondi o per qualcosa comunque ricostruttivo, lei, anche attraverso il comune amico Bagnoli, conti su di me. Grazie. Io vorrei ringraziare il Comune di Verona che sì, è stato sensibile a questo nostro progetto, dandoci una sede, un campo da calcio, perché i più giovani continueranno a fare attività e partite per continuare nella storia del Verona. Abbiamo inserito ultimamente, ieri sera, proprio anche un grande giocatore e una grande persona come Damiano Tommasi. Eh beh, non siete cascati male. Emozionato e onorato per avere. Abbiamo un nostro grande presidente onorario che è il dottor Chiampan. Sì. E noi, ripeto, abbiamo in questo momento bisogno un pizzico di fortuna, ma soprattutto che ci siano vicini i nostri amici di Barcellona, perché sono loro che ci hanno dato questa forza e noi non finiremo mai di ringraziarli. Io credo, la ringrazio Nanni, io credo, Alfonseda, che non ci siano dubbi su questo, no? No, non c'è dubbio, no? Io anche sono contento se abbiamo potuto aiutare in questo senso, no? Io sono contentissimo, anche noi come ex calciatori di Barcellona, no? Alfonseda, io Io chiudo dicendo che il vostro calcio è poesia pura, lo dico da aficionado che in questi anni non si perde una partita del Barça, sempre sperando che sia al sabato, così riesco a barcamenarmi rispetto a quelle italiane. Io la ringrazio davvero per averci fatto scoprire che oltre alla poesia vi occupate anche della prosa, e cioè della vita di tutti i giorni e di chi ha condiviso un pezzetto di strada con voi. Grazie. Grazie a lei. Grazie a tutti e due davvero. Facciamo in tempo, credo, a mandare in onda, giusto per non tradire un appuntamento fisso, velocemente il Sembra Ieri di Nicola Filippone. Sembra Ieri. 26 gennaio 1936. Prima giornata di ritorno del campionato di Serie A. L'Alessandria travolge per 6-1 il Milan, allenato dall'alessandrino Adolfo Baloncieri. L'esploit dell'Alessandria, guidato dall'austriaco Karl Sturmer, non sarà un lampo isolato. La stagione 1935-36 è una delle migliori di sempre per la formazione in maglia grigia e si chiuderà con una finale di Coppa Italia persa per 5-1 contro il Torino. Però... grazie a tutti gli intervenuti, a cominciare da Ramona Alfonseda da Barcellona, da Franco Nanni da Verona, grazie a Laura Vanossi in redazione e a Filippo Aureggi in regia. Buon pomeriggio.